Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Chi ci segue sa che da oltre un anno affrontiamo in questa trasmissione temi legati a soprusi, violazioni di diritti, veri o presunti abusi. Subito la mail alla quale segnalare casi, mi raccomando, che possono coinvolgere non solo chi scrive ma una platea ampia di persone. La mail è unabusoalgiorno@radio24.it. per chi volesse parlare o visitare il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, mi farà piacere anche ricevere le vostre lettere e critiche. robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri, come la trasmissione che conduco il sabato alle 19.30 su Radio 24. Veniamo al nostro caso, molto interessante devo dire, di un radioascoltatore che ci ha scritto, è della provincia di Milano, un radioascoltatore che in maniera molto puntuale, senza alcun tipo di polemica nei confronti del datore di lavoro, segnala un caso a mio giudizio interessantissimo, vale a dire una persona che nel corso degli anni vede venir consumata la propria idoneità e prestanza fisica a svolgere un tipo di lavoro pesante e quindi si trova impossibilitato a svolgerlo con la stessa efficacia ed efficienza di prima, dover soffrire in silenzio per questa condizione, e quindi si chiede e ci chiede se effettivamente non sia il caso di affrontare il caso di chi come lui si trova in queste condizioni. Stiamo parlando quindi di lavori pesanti o lavori usuranti che esulano dalle categorie di lavoro usurante che conosciamo. Ma per parlare di questo caso, per il quale ho chiamato due persone estremamente rappresentative del mondo del sindacato e della, come dire, dell'università e della, quindi, intelligenza in tema di flessibilità del lavoro, io do il buongiorno e il benvenuto al nostro radioascoltatore Diego Anelli. Buongiorno Anelli. Buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori e ai due ospiti. Allora Anelli, può sinteticamente raccontarci il suo caso? Io, come ha detto giustamente lei, faccio un lavoro abbastanza usurante, abbastanza logorante dal punto di vista fisico, e a causa di questo lavoro, questo è documentato anche dalla certificazione di malattia professionale, eccetera, eccetera, insomma, a causa di questo lavoro mi trovo a soffrire di epicondilite sul bilaterale, ho due ernie al disco, ho le ginocchia molto doloranti, per cui per lavorare sono costretto a assumere gli antidolorifici, insomma questo mi crea tanti problemi. Ecco, lei, immaginare, ecco. Certo, ecco, lei ha chiesto alla sua azienda se era possibile avere un part time, ma non perché abbia voglia di lavorare di meno, ma per fare in modo di poter frequentare una palestra che gli dia un po' di sollievo, quindi l'aiuti a star meglio e continuare a fare il proprio mestiere. La sua azienda che cosa le ha risposto? Assolutamente no, perché non rientra negli schemi della... Ma questo è comprensibile, no? Voglio certo dire, non mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Ecco, anche perché si potrebbe anche obiettare, e vorrei subito la sua opinione, che se io, azienda, assumo una persona per svolgere una determinata mansione, un determinato lavoro, se poi questa nel corso degli anni non è più in grado di svolgerlo, ma io l'ho sempre messa nelle condizioni di svolgerlo correttamente, ebbene la colpa, diciamo così, non ricade sicuramente sull'azienda, non ricade neppure sul lavoratore, ma è un dato di fatto che non si è più in grado di svolgerlo come prima. Dico bene, Anelli? Sì, lei ha ragione, però io, se posso permettermi di aggiungere certo qualcosa, diciamo che allora le aziende pagano un'assicurazione per questo tipo di problematiche, che è l'INAIL, quindi diciamo noi come lavoratori noi siamo coperti da un punto di vista economico. Voglio dire, io adesso ho fatto domanda per avere il riconoscimento di malattia professionale, otterrò qualcosa, un risarcimento, quello che sarà sarà, ma io sto parlando di altre cose, sto parlando di qualità della vita, sto parlando del fatto che io, con tutti questi problemi che ho, a parte il fatto di dover essere subire sul lavoro anche umiliazioni, come ho scritto, vabbè, questo comunque senza fare nessuna polemica, perché rientro in un certo tipo di ottica, come si diceva, però poi ne risento anche nella mia vita normale, perché poi adesso mi fa male la schiena, io se devo alzare il mio nipotino, per dirne una, non ce la faccio neanche più magari. Certo. Sono tanti problemi. Ecco, però allora le chiedo, lei ha sempre lavorato, voglio dire, a norma, cioè non si è trovato in un tipo di impresa che l'ha emarginata, l'ha messa in condizione di lavorare male o via dicendo, no? No, ecco, no, appunto, ma... quindi un'impresa che ha sempre seguito le regole, sì, e lei sì, però ad un certo punto della sua vita, a 52 anni, diciamo, l'operaio della manutenzione, sì, si trova in questa condizione fisicamente deficitaria. Esatto. Benissimo. Ma non perché abbia fatto lavori male, voglio dire, certo. Semplicemente perché il lavoro pesante alla fine ti consuma. Benissimo. Questa è la realtà. Allora, io ho chiamato a interloquire con noi il segretario nazionale della FIOM CGL, vale a dire il sindacato maggiormente rappresentativo nell'ambito del lavoro metalmeccanico, Maurizio Landini. Buongiorno Landini. Buongiorno. Allora, la invito subito a commentare il caso, ripeto, ci troviamo di fronte ad un esempio, ma in realtà sono migliaia, il caso del nostro radioascoltatore. Innanzitutto, leggendo anche le mail che l'ascoltatore ha inviato, ci sono due cose che andrebbero indicate, perché quando lì si dice che lui è stato anche costretto a fare 10 ore di lavoro al giorno in alcuni periodi, a parte che non c'è questo contrattualmente obbligo, ma si sa che le imprese delle pressioni ne possono fare, ad esempio lavorare 10 ore al giorno non è un elemento che fa bene alla salute, quando sarebbe utile lavorarne 8, così come il fatto di fare anche lavori pesanti che riguardano spostare pesi, come li viene indicati, e tutto il resto, anche questi sono aspetti che andrebbero valutati con attenzione prima di dire che i guai fisici che anche l'ascoltatore ha non derivano dal tipo di lavoro che ha fatto, perché l'azienda l'ha sempre messo nelle condizioni di evitare determinati problemi. Detto questo, è indubbio che siamo, il caso che l'ascoltatore indica è un caso che purtroppo non è isolato, perché in questi anni le condizioni di lavoro dentro le imprese non è vero che sono migliorate, in molti casi noi siamo anche in presenza di un ritorno al lavoro manuale molto spinto sotto qualsiasi tipo di situazione. Le chiedo questo, Landini, venendo specificamente ad una richiesta che vorrei che lei prendesse in considerazione da parte del nostro radioascoltatore. Dice: ma perché non trovare il modo di concedere un part-time ai lavoratori che si trovano? Ecco, prego. Arrivavo anche a questo punto, perché io credo che questa sia una cosa utile, anzi devo dire che le organizzazioni sindacali con qualsiasi tipo di governo da anni hanno avanzato una proposta, ad esempio, che le persone che sono vicino alla pensione, che quindi è molti anni che lavorano, potessero anche avere la possibilità di fare un part-time anche incentivato, per poter permettere anche l'assunzione di altri lavoratori giovani che al limite possano imparare un mestiere. Tra l'altro è una delle cose che mi pare che anche l'ascoltatore indicava nella sua email. Io devo dire che questa è una proposta che le organizzazioni sindacali hanno avanzato, che non è mai stata accolta da nessun tipo di governo che c'è stato e che molto spesso trova anche molte resistenze nel rapporto, diciamo così, con le imprese. Invece io credo che questo sarebbe, soprattutto per le persone che sono più vicine alla pensione, potrebbe aiutare questi e potrebbe anche favorire l'inserimento di giovani, soprattutto laddove questo può determinare anche un passaggio di esperienza, di consegne, di formazione di nuove professionalità. Eccola. Quindi da questo punto di vista io credo che questo sia un tema che c'è e che andrebbe affrontato anche con più forza di quello che è stato fatto fino ad ora. Le chiedo questo, Landini. Quanti sono, a suo giudizio, i lavoratori, la platea di lavoratori che non rientra nella categoria dei lavori usuranti e che quindi non gode di determinate agevolazioni, eccetera, eccetera, e quindi potrebbe essere potenzialmente interessato, come il nostro radioascoltatore, al tipo di discorso che lei stava facendo, vale a dire un part-time da inserire nelle imprese per questo tipo di persone? Linea teorica questi sono molti, anche se non è diciamo così normale che lavorando si arrivi nella condizione di non essere più in grado di poter fare il lavoro, perché se è così questo vuol dire che c'è anche un problema che va affrontato in modo diverso. Mi permetto anche di dire che sarebbe utile anche chiarire sui lavori usuranti, perché sono molti anni che se ne parla, ma in realtà non c'è nulla in questa direzione che è stato approvato. perché anche il recente accordo che fu fatto, che doveva prevedere dei decreti, noi siamo in presenza del fatto che il governo, che poi adesso non c'è più, i decreti non li ha fatti, e non mi risulta che il nuovo governo voglia affrontare anche il problema dei lavori usuranti. Quindi chi lavora sulle linee di montaggio, chi fa il lavoro notturno, non c'è ancora la condizione per questi di poter ridurre il tempo con cui loro stanno in fabbrica e poter andare in pensione prima. Bene Landini, io la fermo, la ringrazio per il suo intervento, grazie al nostro radioascoltatore. In regia a Giorgio Matè e in studio a Laura Faggin, Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. Tratteremo ancora di lavori pesanti insieme ai nostri ospiti. Da Roberto Galullo una buona giornata a tutti.